Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ci diamo appuntamento per cenare insieme. Davanti ad una birra mi racconta di un anno come dipendente in un'azienda di Milano e poi della fuga per riprendere il controllo della sua vita. E le giornate senza padroni, le canzoni nelle piazze e le ragazze che si innamorano di lui. Mi colpisce al cuore e soprattutto nella fantasia. Sono trafitto ovunque. Voglio andare con lui. Mi chiamo Stefano Carlini, ho 54 anni, vivo a Rimini e il mio lavoro è formatore ed istruttore di fitness, personal trainer e preparatore atletico. Sono le 4 e 8 minuti di lunedì 19 settembre del 2011, buongiorno a tutti, io sono Matteo Caccia, finalmente la formazione di Voi Siete Qui è tornata al completo, la splendida Viola Bottoni, l'impagabile Tiziano Bonini, Paolino Corleone era già con noi dalla scorsa settimana. C'è una giornata quasi atlantica oggi a Milano, c'è uno strano vento che soffia praticamente tre volte all'anno e il cielo è striato di bianco e di azzurro che sembra quasi a metà tra porto e... non so, è che Tiziano mi ha raccontato di Porto un attimo fa, non sono mai stato a Porto, però Porto è sull'Atlantico, quantomeno, giusto? 349-238-6666, oggi racconto la storia di Stefano Carlini, è la storia che parla di lui e di un suo amico che aveva perso per la strada dopo l'università e ha rincontrato per strada, in una piazza per l'esattezza, che suonava una chitarra. È un po' la storia di tutti quegli amici che non sono immaginari, ma rimangono nel nostro immaginario perché li abbiamo persi tempo fa e sono partiti. Magari non sono proprio partiti per un altro continente, però sono partiti per una tangente, hanno preso una strada che pochi prendono, hanno preso una via che noi non prendiamo e che spesso guardiamo da lontano un pochettino perplessi. Ecco, la storia di Stefano parla di questo. Proprio perché parla di questo la storia di Stefano, più tardi, dopo la borsa, io voglio sentire in diretta un amico di cui io ho già parlato qua, credo durante Io Sono Qui, credo prima dell'estate, giusto prima che lui partisse. È un amico che si chiama Rosario Tedesco, che è partito il 13 di luglio, mi pare, ed è ancora in giro e tornerà, ci sarà ancora per un po'. Sta facendo tutto il Danubio a piedi. È partito da un posto che mi dirà lui più tardi in Germania e arriverà sul Mar Nero. Sul Mar Nero, perché lì c'è, sono giusto il delta del Danubio. Questo proprio per questo motivo, perché parlo di questi amici che partono e con i quali noi rimaniamo sempre un pochettino con la fantasia, perché boh, chissà che fine avranno fatto. Sono arrivati dei messaggi sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui. Uno è di Stefano e dice: Francesco, Emiliano e Mattia hanno avuto il coraggio di fare un colloquio che io non ho fatto. Due di loro sono partiti sabato per la Cina e so che vivranno un'esperienza anche per me. Barbara invece dice: io mi sono ricordata di essermi amica e sono partita. Non so ancora se la mia vita sarà più facile, sarà più bella o più allegra, o nemmeno più piena. So che gli amici che sono rimasti mi mancano, ma so anche che a provare. Non si sbaglia mai. 349-238-6666. Adesso vi racconto la storia di Stefano. Prima di farlo però, visto che moltissimi scrivono, soprattutto sul profilo Facebook, ma anche alla mail, dicendo che non riescono a recuperare il podcast, non sanno come farlo, c'è un modo molto semplice. Ce ne sono due. Il primo è andare sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e scaricarvi il podcast. Oppure c'è proprio una sezione podcast della pagina e andare a Voi Siete Qui. Il più facile in assoluto invece è, se non ce l'avete, scaricatevi iTunes, andate alla pagina podcast e vi abbonate. Quello automaticamente vi scarica tutte le puntate e ve le sentite quando volete. 349-238-6666, il tutto ovviamente è gratis, e anche gratis la storia di Stefano Carlini. Ognuno di noi potrebbe essere da qualche altra parte rispetto a dove si trova ora. Potrebbe esserlo se solo avesse ascoltato una parte di sé che chiamava da chissà dove. Ecco, se io penso a quando mi sono davvero imbattuto in una sliding door, allora rivado a quella fredda e soleggiata mattina di dicembre, nel 1989, quando a un certo punto è suonato il telefono di casa. Pronto, sei Stefano? Dico di sì, ma chiedo con chi sto parlando. Ma vedi che ti ho trovato, sei proprio tu. Sono contento di risentirti, sono Beppe, ti ricordi? Beppe dell'università, il riccio, quello che camminava in equilibrio sul cornicione del ponte di via Saffi. Dai, Stefano, quello che saltava sempre le lezioni. Avevamo fatto un solo anno di facoltà assieme, poi lui si era trasferito in un'università al sud. Era simpatico, un fiume in piena. Era uno di quelli che dopo un pomeriggio insieme avevi voglia di rivederlo solo dopo una settimana. Comunque gli chiedo come sta, cosa fa, dov'è. Compa, tutto a posto, sto bene. Guarda, sono nella tua città, suono la chitarra per strada. Mi racconta che da un paio d'anni vive così e che ci fa anche un sacco di soldi. Io sorrido, sussurro una cosa tipo grande. Però comincio a domandarmi come sia possibile vivere di quello. Guarda, non si sta male, sai? Sono 4-5 ore al giorno. Vado nei posti turistici. Mi piazzo nelle strade del centro, dove passa la gente. Mi dice quanto guadagna e io rimango sbalordito. Mica perché la cifra è enorme in termini assoluti, ma perché è gigantesca rispetto a quello che io credevo guadagnassero i suonatori ambulanti. Compa, perché non passi a trovarmi? Dai, mi trovi in piazza. Hai presente l'orologio? Mi trovi lì sotto. Era un mio compagno di università, io facevo l'ISEF, lui anche, e lui era particolarmente strano in alcuni suoi atteggiamenti. Insieme suonavamo la chitarra, che ci serviva un po' per andare a scroccare qualche cena a casa degli amici. I nostri cavalli di battaglia erano i cantanti dell'ora, quelli che andavano forte, James Taylor, Neil Young, e tutta la carrettata di cantatori italiani. Io non posso non accettare l'incontro con quella persona emersa da 10 anni prima. Nel pomeriggio saluto moglie e figlio ed esco a cercarlo. Arrivo sotto la torre dell'orologio e lui è davvero lì che canta. All'università qualche volta avevamo suonato assieme. Qualche arpeggio e qualche corretto azzeccato, ma bastava per suonare dignitosamente in piazza o nelle case di amici. Ma quelli erano gli anni dell'università. Poi la vita ha in serbo la vita, appunto. Il lavoro, la famiglia. E il lungo fiume tranquillo. Tutto apprezzabile, solo che ora davanti a quel tizio che suonava, io stavo cominciando a ripensarci. Comunque Beppe mi vede, mi fa un cenno di saluto con un sorriso grande così. Sta suonando Helpless, un pezzo di Neil Young. Ha un giubbotto marrone che arriva alla vita e un paio di jeans. Scarpe da ginnastica e guanti senza le dita. La chitarra è sgangherata, ma ha un bel suono e lui canta con grande entusiasmo. Una decina di persone ferma ad ascoltarlo. Qualcuno batte le mani, altri incredibilmente mettono dei soldi nella custodia della chitarra. Gli sorrido anch'io, di vero piacere, e mi metto ad ascoltarlo. Quando finisce il brano mi viene incontro e mi abbraccia. Ha ancora tutti i suoi ricci, glieli arruffo. Sono contento di vederlo. Ci stringiamo forte, poi lui riprende a suonare. Prima Dylan e poi James Taylor, repertorio classico. Lo fa in un inglese un po' biascicato, ma rende bene. Il pomeriggio di dicembre è buio, ma è allegro. Qualcuno addirittura canta con lui. Poi a un certo punto attacca Our House di Crosby, Stills & Nash. Quello era il nostro cavallo di battaglia quando giocavamo a fare i cantanti. E io lì non resisto, mi guardo in giro, controllo se qualcuno mi conosce e mi unisco a lui. Ecco, in un attimo spariscono tutti i 10 anni e sono ancora con lui a fare l'hippie. Ogni tanto passa qualcuno che mi conosce e mi saluta con la mano, ma chi se ne frega. Finito il brano mi prendo anche io qualche applauso e mi ha commiato. Ci diamo appuntamento per cenare insieme. Davanti ad una birra lui mi racconta di un anno come dipendente in un'azienda di Milano e poi della fuga per riprendere il controllo della sua vita. Le giornate senza padroni, le canzoni nelle piazze, le ragazze che si innamorano di lui. Mi colpisce nel cuore e nell'anima e soprattutto nella fantasia. Sono trafitto, vorrei andare con lui. Lui invece mi prende in giro. Mi dice che ha un lavoro, ha una moglie, un figlio. La mia vita, compà, è quella di uno zingaro. Il mollare tutto è qualcosa che ho sempre dentro di me. Semplicemente l'idea di mollare tutto mi dà la sensazione di libertà. La libertà non è qualcosa che esista realmente, però la sensazione di per sé è già una è libertà vera. Come mi immaginavo dopo, assolutamente non lo so, perché sono conti, insomma faccio mai. Diciamo che la prima cosa che io ascolto è l'istinto. Gli ho chiesto quando partiva e lui mi ha risposto: guarda, parto domani, mi aspetto un amico a Bologna. Ci mangiamo 2 pizze e beviamo 3 birre. Ci salutiamo promettendoci di incontrarci ancora. Io vado a casa con la decisione risoluta di raggiungerlo e diventare anche io un suonatore di strada. Complice della mia risolutezza ovviamente sono le 3 birre. Entro nel letto e mi accoccolo vicino a mia moglie. L'indomani mattina della risolutezza del giorno prima non era rimasto più nulla. Colazione con caffè e crostini imburrati. Serviti da mia moglie che mi dice di sbrigarmi per non far tardi al lavoro. Un bacio a mio figlio e non sono più un hippie con la chitarra. La vita ha la meglio sui deboli, cioè su quasi tutti. Ora Our House me la strimpello da solo, a casa mia, e faccio finta di essere un menestrello che vive per strada e dorme su un camper. One morning. I woke up and I knew it was wrong. A new day, a new way, and new eyes belong. Lord, the way I thought mine had gone. Carry on, love is coming. Love is coming to us all. Mollare tutto e partire. Questa è la seconda cosa che ci viene in mente di fare dopo ogni ostacolo che incontriamo nella nostra vita. Una discussione sul lavoro, con dei capi che non capiscono. O una lite in casa, con le mogli, con i genitori, con il marito. La seconda cosa che si pensa è sempre: basta, piglio e me ne vado, che dovunque vada starò sempre meglio che qui. La prima cosa che ci viene in mente invece di solito è: ma andate a cagare. Ci hanno fatto decine di film sulla fuga. Gruppi di persone che alla soglia dei 30 anni prendono un furgone Volkswagen e via, in Africa. O invece persone che da sole mollano tutto e vanno in India. La fuga però è un'arte, non è così semplice. Escapologia si chiama l'arte della fuga. Sapersi liberare da catene, lucchetti, camicie di forza è una cosa che in pochi sanno fare. Soprattutto che in pochi sanno reggere. Io ce l'ho un amico che l'ha fatto. Non lo sento più da qualche anno e un po' mi spiace. Però credo che alla fine faccia parte del pacchetto prendo e scappo. Al tempo era un consulente in formazione. Lavorava per quelle società che si sono inventate cose tipo il team building, avete presente, no? Faceva camminare su un ponte tibetano dei manager che avrebbero pagato per non farlo. Lavorava 5-6 giorni a settimana, come tutti. Aveva una macchina e una vecchia moto, come molti. Pagava le tasse, come pochi. Non aveva moglie né figli, e questo probabilmente ha fatto la differenza alla fine nella sua scelta. Ogni tanto incontra ancora il gruppo di amici a cui appartenevamo, e quasi sempre si parla di lui. Si dicono un sacco di cose su di lui. Qualcuno sostiene che lavori in Germania, altri dicono di aver saputo che faceva lo skipper ai Caraibi. L'ultima volta che l'ho sentito, 4 anni fa, era in Spagna. Vendeva assicurazioni. Ecco, io credo che in questi casi l'aspetto esotico spesso prevalga sulla realtà. Noi siamo qui a casa e ci immaginiamo lui, là. E pensiamo di tutto, che è stato un grande, che ci vuole coraggio, ma che non aveva scelta, che ha fatto bene, no, che ha sbagliato. Sì, io coi figli non lo potrei fare, ma i figli li hai voluti fare, altrimenti partivi anche tu. Che alla fine è comodo fare questi ragionamenti. È comodo perché lui non c'è. È così lontano che nemmeno sappiamo dove sia. Noi ci beviamo il nostro spritz, decidiamo dove andare nei fine settimana, parliamo di quanto lavoro c'è, di quanto lavoro non c'è. E lui rimane come un piccolo spazio vuoto nella testa, uno spazio da riempire. Ecco, io ho deciso di fare una cosa. Ho deciso di scrivergli una lettera. Una lettera che non gli spedirò. Se capiterà, magari la ascolterà. Non so come e non so quando. Caro Fulvio, ti scrivo dallo studio della radio in cui lavoro. Lo faccio da qui perché è il posto in cui passo la maggior parte del mio tempo. Mi domando spesso dove la passi tu la maggior parte del tuo tempo. Sai, sei diventato una specie di animale mitologico. Ormai quando ne parlo con gli altri, con Tex, con Peppo, con Bazooka, sembri una cosa che sta a metà tra un uomo e un satellite che non si ferma mai. Chissà dove sei ora. In questo momento, dico. Alle 16:22. Magari dormi, se sei dall'altra parte del mondo. O magari stai mangiando una di quelle porcherie che piacciono a te. Chissà chi sei ora. Io ho sempre la convinzione ferrea che le persone non cambino. Le cose, quelle sì, quelle cambiano, le persone no. Però chissà, boh, magari mi sbaglio. La cosa che so è che sei partito. E qualunque sia il motivo per cui non sei qui, questo alla fine fa la differenza. Perché è ciò che facciamo che ci definisce, e non quello che ci raccontiamo. Spero che tu senta questa lettera prima o poi. E spero che tu stia bene dove sei. Matteo. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. l'abbiamo lasciato in mezzo a una strada o a una piazza che suonava con una chitarra, con un atteggiamento un po' hippie, non so, anche dei costumi, non so se anche dei costumi da hippie, e lo ritroviamo dove esattamente? Pronto Stefano? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Sto bene, tu come stai? Io me la cavo. Senti, dove sei esattamente in questo momento? Allora, io sono a Rimini di fronte al mio computer, sulla scrivania. Perché tu sei di Rimini? Posto, diciamo, tranquillo, molto lontano da quella che era la realtà semi-hippie di quella volta. Senti, sei di Rimini tu, Stefano? Sì. E cosa fai nella vita? Allora, io faccio un mestiere abbastanza strano, formatore di istruttori di fitness. Cioè, tu formi quelli che poi fanno gli istruttori? Quelli che poi entrano a insegnare in palestra. E quindi tu sei un super istruttore? Guarda, sì, lo so che è brutto detto così, però mi no. No, non mi pare brutto. Cioè, tu eri un istruttore che semplicemente si è creato cioè, te la sei creata tu o esisteva già? Immagino esista no, già. Diciamo che esiste in realtà, non so se posso dirlo, si chiama Federazione Italiana Fitness, io sono un formatore, un responsabile di questa federazione. Ok. Quindi il mio compito è il sabato e la domenica, monto in macchina e vado in qualche palestra a insegnare fitness ai potenziali istruttori. E tu lavori solo il sabato e la domenica, no? No, diciamo che però lavoro spesso sabato e la domenica, anche durante la settimana, ma diciamo che io lavoro al contrario, nel senso che quando gli altri riposano io lavoro, quindi quasi sempre sabato e la domenica e spesso durante la settimana. Ma quindi scusa Stefano, tu non hai un lavoro particolarmente noioso per cui vedere uno che suona fortuna, in mezzo a una strada può farti venire voglia di mollare tutto, no? No, infatti il problema è questo, cioè la voglia di mollare tutto c'è sempre perché connaturato con chi ha diciamo degli ideali di scappare da qualcosa e cercare qualcosa che comunque non si avrà mai, però se devo fare un bilancio della mia vita direi che io ho avuto e sto avendo una vita bellissima. Quanti anni hai Stefano? 54. Ah, ma sei un uomo, hai la voce di un ragazzino però, no perché hai la voce di un ragazzino. Sì, ti ringrazio. Quanti figli hai? Sono due. Che hanno? Un 19enne e una decenne. Ustia, proprietà difficile. Beh, decenne ancora no, però 19enne. 19enne è difficile da qualche anno. Adesso sto attendendo le difficoltà anche con Alice che ha 10 anni. Ah, quindi un momento complicato per tutte e due. Sì, adesso con il figlio si chiama Nicolò ed è un chitarrista rock, diciamo che non si aveva fatto le orme del padre, ma io non è che avrei voluto che lui diventasse cioè che la sua professione per forza dovesse essere affine applicato allo sport. Però diciamo che c'è qualche difficoltà di comprensione, ma io adesso capire benissimo, anche perché la difficoltà di comprensione l'ho avuta anch'io con i miei. Beh, ma poi Stefano, scusami, ma evidentemente lui ha preso la parte di te che se ne vuole andare, visto che fa il chitarrista rock. Quindi non è che gli puoi dire proprio molto. Probabilmente sì, io credo di sì, ha questo qualcosa di inespresso, potenziale che dentro di lui vorrebbe capire che cos'è. Io penso di leggere comunque dalla mia piccola esperienza, sono nato dall'esperienza più di lui, il desiderio è quello. Sì. Senti Stefano, e poi ti lascio andare, mi racconti velocemente quando è successa questa cosa, quanti anni fa hai rincontrato questo amico? I tempi dell'università io ho fatto l'ISE a Urbino, sì. Tra Urbino, una bellissima città con come posso dire un sapore particolarmente hippie, sì. Qui ci sono cascato dentro in pieno. Io suonavo la chitarra, per contestualizzare il periodo era fine anni 70. Ma invece il tuo amico quanto tempo fa l'hai incontrato? Allora, dalla fine anni 70 la telefonata è dell'89. Dell'89, quindi erano... Io te lo dico con sicurezza, avevo dei riferimenti piuttosto precisi. Siccome io nell'89 ero già sposato, vivevo sì. Già con quella che poi è diventata mia moglie, sì. Per cui è stato come posso dire, qualcosa che tornava dal passato, qualcosa nel quale credevo di aver chiuso, e invece questa telefonata l'ho vissuto un po' come un richiamo, come qualcosa, come una chimera, come un... E dall'89 a oggi Stefano, è risuccesso non di rincontrare lui, ma di avere quella specie di inquietudine, vuol dire semplicemente la voglia di mollare tutto e andare. La voglia di mollare tutto sarò tutti i giorni. Ok, va bene. E allora hai imparato a convivere. Ma non perché stia male con le persone con le quali vivo, ma perché evidentemente la mia natura è questa. E allora Stefano, in bocca al lupo per la tua convivenza con la tua natura. Ti ringrazio molto. Buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao. 349-238-6666. Paola scrive: ho un amico che gira il mondo con le bancarelle, un altro che ha scelto di fare il pastore in montagna, un'amica vive chissà dove in Spagna dopo essere stata in India, e c'è chi ha scelto il Sud America. Io ho 30 anni e credo che il vero coraggio sia stato rimanere. Boh, chissà, si tratta di coraggio o solo di gusti. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La foto che mi ha dato Stefano è veramente spiazzante, perlomeno per quanto mi riguarda è spiazzante, perché nell'ascoltare e nel leggere quel piccolo episodio della sua vita, io mi immaginavo una persona, anche se poi ha detto che è un insegnante di fitness, di una persona che ha una vita, perlomeno che assomiglia alla normalità della vita che immagini quando pensi alla vita normale. Ho detto niente, lo so che ho detto niente, però avete capito cosa intendo. Nella foto invece Stefano si trova su un palco, alle sue spalle c'è scritto Federazione Italiana Fitness, ha su una canotta bianca, ma non di quella alla Bossi, proprio una canottiera un po' stilosa, dei jeans larghi, quelli sai un po' danza, ha un archetto, quindi sta parlando, evidentemente sta scandendo degli ordini a delle persone che sono giù dal palco, ed è in una posizione super plastica, sembra quasi che stia prendendo il volo. Voi siete qui. 349-238-6666. Invece ringrazio Sasha che mi ha scritto questo messaggio sul profilo Facebook e dice: Matteo, sei un bastardo, questa puntata è fantastica, la mia vita è appena entrata in un fiume di cambiamenti, per ora solo sulla carta e sulle parole, ma se il coraggio che mi sento ora continuerà a darmi la forza, sono sicuro di riuscire a farne almeno in gran parte. Beh, Sasha, in bocca al lupo. 349-238-6666. Davide, a 23 anni sono partito per l'India e sono tornato nella mia città a 30 anni, quindi 7. Mi piacerebbe sapere cosa fai adesso, Davide, cosa hai fatto là. Poi vabbè, ci sono quelli che mi dicono che Porto non si dice Porto, ma si dice Oporto, che Porto è solo la squadra di calcio. Non è così. Non è così, perché Oporto è la definizione inglese della città portoghese. Veniamo invece al primo amico di cui vi parlavo, non di Fulvio, quello a cui ho scritto la lettera. Quello, perché di Fulvio ho perso le tracce, dell'altro invece so esattamente dove si trova. In questo momento si trova a Budapest, Rosario, e lo sentiamo più tardi. Lui tiene un diario, ovviamente, di questa lunga passeggiata che sta facendo, visto che lui è uno di quelli che è partito. Tornerà, lo spero, comunque è partito. Tiene un diario e lo carica quasi tutti i giorni sul suo profilo Facebook. Delle cose che ha scritto, ce n'era una che secondo me dava meglio delle altre la sensazione di che cosa voglia dire fare 30-40 km a piedi tutti i giorni da luglio fino a qua e in avanti. Ed è un pezzo in cui lui racconta che cosa prova quando ritorna sul Danubio e vede davanti a sé il confine slovacco. Con la stessa gioia con cui i marinai gridavano terra quando dopo giorni la avvistavano, io dopo un detour improvvisato e incerto grido Danubio. La passeggiata di oggi è stata bellissima, sempre lungo il fiume, sempre dentro al bosco. Alle 9:30 la riva slovacca mi appare in tutta la sua selvaggia bellezza. La foschia avvolgeva stamane le colline e il fiume, come un mistero da custodire. La Slovacchia si annunciava come una favola. Uscito dal bosco, sono entrato. La Slovacchia. Dal bosco all'asfalto, questo è il mio confine. Per fortuna ho acchiappato al volo due ciclisti. Scusate, destra o sinistra? Bratislava, da quale parte? A sinistra. Sono solo 3 chilometri. Poco dopo un altro ciclista si è offerto di accompagnarmi all'incrocio, l'incrocio dove imboccherò la ciclabile. Lui parla in inglese e mi insegna le mie prime 3 parole slovacche. La prima è uomo. Meshi. La seconda è donna, Ieni. E poi grazie, Jesenek. Ovviamente grafia e pronuncia sono del tutto soggettive e approssimative. È quello che credo di aver sentito. Dopo avermi indicato Bratislava, ci tiene a mostrarmi i bei posti lungo il lato slovacco del Danubio, che si chiama Dunaj. Gabčíkovo in particolare. Ovviamente i nomi di questi paesi, quando li pronuncia, per me suonano incomprensibili. Nel pomeriggio quintali di turisti, amazzi, come le rose degli indiani a Trastevere, mi scorrono a fianco, nella piazza principale. Le guide parlano inglese, spagnolo, tedesco, tutte con accento impeccabile. Domani, alle 10, a Primator, il municipio, mi timbreranno il mio taccuino, forse. Jano, il portiere del municipio di Bratislava, così mi assicura, parlava solo in slovacco, ma ci siamo capiti. Oggi è festa nazionale, tutto chiuso. You are a hero, you are off the hook. I read you like a poem or a holy book. You're the kind of girl who jump out of a window. Tell me something I don't know. You call me at home and at the restaurant. When you feel alone and whenever you want. When I go to the movies and when I'm watching the show. Yo, tell me something I don't know. 11 September. Etzergom. Perché Rosario carica sul suo profilo Facebook questi video, forse ne carica anche troppi, adesso infatti glielo devo dire, in cui lui riprende le cose che vede e i suoni che sente. E questo non so nemmeno sinceramente da dove arrivi. Pronto Rosario? Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? Benissimo. Dopo 78 giorni di cammino mi trovo a Budapest. Sei esattamente a Budapest in questo momento? Sono a Budapest, sì, e questa sera alle 7 di sera sono invitato alla Central European University per raccontare il mio viaggio all'Università Americana di Budapest. Quanti chilometri abbiamo fatto, Sasà? Allora, fino adesso l'ultimo cartello, il segnale chilometrico che ho visto diceva 1655 chilometri al Mar Nero. Ma tra tagli e accorciamenti e a qualche allungamento invece credo di averne fatti già 1200. Beh, sei partito, scusa, perché ci siamo sentiti a luglio, era il 13 di luglio che sei partito. Esatto, sono il 14 il primo giorno di cammino, perché il 14, come sai, oltre a essere l'anniversario della Rivoluzione Francese, anche l'anniversario della nostra festa della Santa Patronale di Palermo. Di Palermo, certo. Come dimenticarlo? Senti, Sasà, io ho davanti a me in questo momento sullo schermo del computer una mappa del Danubio, no? Tu sei a Budapest, quindi non sei ancora a metà, direi proprio di no. No, non ancora, ma mancano, teoricamente mancherebbero, che so, ancora 200 chilometri circa. Perché la roba strana è che il Danubio a un certo punto scende e poi fa una specie di doppia V, no? Mentre tu potresti andare dritto e arrivare al Mar Nero, e secondo me tipo in 2 settimane ci sei, Sasso. Beh, sulle 2 settimane ho qualche dubbio, però sai che anche mia sorella mi ha detto una cosa del genere a Bratislava, è venuta a trovarmi e mi fa: ma perché non accorgi? Ma perché non vai dritto, infatti? Più noioso, perché non vai dritto e te ne freghi? Sì. Però io, sai cosa ho scoperto in questo viaggio? Che dimmi. La dimensione più interessante che sto guadagnando e che per me si sta trasformando e assume un significato insolito è proprio quella del tempo. Godo di 68 giorni di cammino, nessuno si può permettere per adesso una dimensione così lunga e di giocare con il tempo in maniera così sensibile. Vedo lo scorrere lento del paesaggio, il cambiare lento della lingua che dal tedesco del sud si smussa in un austriaco, e l'austriaco poi improvvisamente vicino al confine già suona come slovacco o slavo, e poi adesso mi trovo invece in quest'isola linguistica lungherese che è impossibile da capire. Nessun riferimento culturale. Senti, proprio, Sasà, alcuni dicono che venga dal turco, dal finnico, dal celtico, ma insomma, Sasà, senti, facciamo così, perché poi noi ci risentiamo adesso nei prossimi giorni quando tu riparti. Mi dici semplicemente, certo, poi ti devo salutare, che cosa vedi intorno a te in questo momento? Allora, in questo momento, come da quando sono entrato qui in Ungheria, vedo un cartello che dice Elado, che vuol dire in vendita. Da quando sono entrato da Bratislava, lasciando subito la tua vacca, fino adesso a Budapest io ho visto due cartelli, in vendita e Harapos Kutia, che vuol dire il cane morde. Ho attraversato una parte un po' più depressa dell'Ungheria fino a 3 giorni prima di raggiungere Budapest, e poi ho raggiunto invece 3 paesi, Esztergom, Visegrad e Szentendre, bellissimi. Senti Sasso, io guarda veramente purtroppo devo chiudere, io ti faccio in bocca al lupo per stasera per l'università, ci sentiamo nei prossimi giorni. Quando vuoi, un abbraccio a tutti voi. Ti abbraccio, grazie mille, ciao Sasà. Questa era la storia di Sasà, ma soprattutto la storia di oggi era la storia di Stefano. Parlava di mollare tutto e partire. Quella di domani, invece, è la storia di Daniele e parla di pazzia. Il comandante ha sospirato e poi si è appoggiato allo schienale. Mi ha detto che avevano avvertito il mio vicino, che stava bene. E scandiva le parole una ad una, come se fossi sordo invece che pazzo. Poi ha proseguito dicendo che non avevo fatto del male a nessuno, ma che avrebbe dovuto avvisare il mio medico. Poi si è alzato, mi ha stretto la mano e mi ha detto di andare a casa a riposare, che non era successo niente.